Magazine 24, la rassegna dei settimanali. A cura di Mauro Meazza. Buona giornata, buona domenica a tutti, benvenuti a Magazine 24, la nostra rubrica di rassegna stampa dei periodici. Oggi, 21 marzo, comincia la primavera, direte voi. In realtà io ho scoperto proprio leggendo un settimanale che la primavera è già iniziata, è iniziata ieri. L'ho appreso da Donna Moderna. Donna Moderna ha una rubrica affidata a Luca Mercalli, che è tra l'altro il presidente della Società Meteorologica Italiana, e nella rubrica lui avvisa che quest'anno la primavera arriva in anticipo. Quest'anno la primavera arriva prima, ma solo sul calendario, non si riferisce naturalmente alle previsioni meteorologiche. Leggo testualmente dalla rubrica di Mercalli: la primavera inizia ufficialmente quest'anno nel pomeriggio del 20 marzo, quindi siamo già in primavera questa mattina, che poi il giorno dell'equinozio. Forse fin dai tempi della scuola siamo abituati, ammette Mercalli, alla data del 21 marzo, ed effettivamente era anche la mia convinzione fino a stamane, ma tra un anno e l'altro piccoli aggiustamenti nel calendario e nell'orbita della Terra intorno al Sole possono far sì che l'appuntamento con la nuova stagione anticipi oppure slitti di qualche ora. Questo appunto è il caso del 2010. L'equinozio ci ha portato in primavera già dal pomeriggio di ieri. Tutto sommato mi sembra una buona notizia, quindi che poi la primavera sia anche meteorologicamente accettabile oppure no, questo staremo a vedere. Ma c'è un'altra cosa di cui Donna Moderna si occupa e che è leggera solo in apparenza, ed è comunque legata proprio alla primavera, perché con il cambio di stagione tradizionalmente si fa anche quello che è molto temuto, come il cambio degli armadi, un appuntamento che in più di una casa sicuramente porta un po' di fatica. Allora, giustamente Donna Moderna ha scelto di dedicare una sua rubrica lento veloce, in cui mette a confronto due esperti sullo stesso tema, il tema proprio la questione del cambio degli armadi, come affrontare e non rimandare il cambio degli armadi. Riferisce Maurizio Ferraris, che è docente di filosofia teoretica a Torino, uno dei due esperti interpellati, che a Napoli, poco dopo un terremoto recente, una professoressa diede un tema in classe. Il tema era: parlate di un evento che ha sconvolto la vostra esistenza. Ci fu uno studente che parlò del cambio di stagione. E altri anni, altre famiglie, dice, più numerose e organizzate, madri casalinghe a tempo pieno, senza aiuti che non fossero quelli dei figli, appunto sgomenti e preoccupati tanto da raccontarlo nei temi. Tuttavia, argomenta Ferraris, anche in tempi di singole, di famiglie decostruite, il cambio degli armadi è impegnativo. Allora, la lingua effettivamente ce lo conferma. Armadio deriva dal latino armarium, spiega sempre Ferraris, che significava ripostiglio per le armi. E in effetti, se anche in italiano lo chiamassimo armario, capiremo meglio il valore delle cose che ci mettiamo dentro, che poi non sono esattamente soltanto degli abiti, sono strumenti, appunto, scrive Ferraris, di rappresentazione del sé, strumenti di seduzione, armi in qualche modo nella lotta per l'esistenza. Quindi svuotare l'armadio per il cambio di stagione è un po' disarmarsi, e questo ha magari il sapore deprimente di una resa. Inoltre, ovviamente, può essere di una noia mortale, ma questo effettivamente è un'esperienza che in molti abbiamo sperimentato. Almeno, dice, quando ti arrendi ci sono i vincitori che ti fanno compagnia, qui invece sei tu da solo a tu per tu con l'armadio, e devi essere tu a scegliere a quali armi, a quali vestiti, cioè rinunciare, come escludere quel tal vestito che magari potrebbe servirci in qualche occasione. Gli stoici, i filosofi dell'antichità, raccomandavano di legarsi solo a cose che non rischiamo di perdere in un naufragio, ma di questo passo uno dovrebbe, scrive Ferraris, affezionarsi solo ai salvagente. Suggerirei una via più tollerante: tenete nell'armadio solo quello che mettereste in valigia quando partite per un viaggio, niente golf d'estate, costumi d'inverno, soprattutto nessuno di quegli acquisti mostruosi che si tengono per non confessare a noi stessi un errore. errore nell'acquisto. Ecco, Ferraris dice meglio buttarli, meglio liberarsene, e effettivamente si comincerà a star meglio. L'altro esperto che viene sentito è Roberto Re, che è un personal coach, e parla anche lui di spauracchio, del cambio degli armadi, ma si prodiga però in consigli molto, molto pratici, ad esempio quello di non avere pietà con i capi di cui non si sa bene cosa fare. Non esitate, eliminate la roba che non vi serve, fatevi alcune domande: questo vestito l'ho usato nell'ultimo anno, mi va ancora bene, mi piace ancora? Se la risposta è no, è il consiglio di Roberto Re su Donna Moderna; se la risposta è no, buttatelo senza remore; se siete ancora indecise, naturalmente preleviamo da Donna Moderna, quindi soprattutto si ha in mente il pubblico femminile, se siete ancora indecise indossatelo, guardatevi allo specchio, chiedetevi: mi sento bene nell'andare in giro così? Da quel punto davanti allo specchio non si può mentire, e quindi si arriverà anche ad avere forse un po' più di spazio nell'armadio in questa occasione appunto così impegnativa del cambio di stagione. Allora, una signora molto importante, non sappiamo se si occupa lei direttamente del cambio degli armadi, ma effettivamente potrebbe anche farlo, ci ha abituato anche degli atteggiamenti poco conformisti, è Michelle Obama, la First Lady, cioè la moglie del Presidente degli Stati Uniti, Barack Obama. Perché vi parlo di Michelle Obama? Perché su Newsweek questa settimana c'è un articolo di Michelle Obama, un discorso di Michelle Obama, dice: Michelle in missione, questo è il titolo che Newsweek ha dato al contributo della First Lady, e che è impegnata appunto, la missione della First Lady è quella della lotta alla obesità. L'obesità specialmente infantile negli Stati Uniti sappiamo è un problema, in realtà pare non essere così da sottovalutare neanche in altri paesi, tra cui il nostro, ma vediamo un po' qual è l'impegno, qual è lo spirito con cui la signora Obama sta affrontando questa lotta. Dice: per anni noi abbiamo saputo parecchie cose riguardo alla epidemia, alla diffusione epidemica di obesità infantile nel nostro paese. Abbiamo sentito le statistiche, sappiamo che un terzo di tutti i bambini, tutti i ragazzi del paese è o sovrappeso o addirittura obeso. Abbiamo visto gli effetti sullo stato d'animo dei nostri figli e abbiamo capito come loro non si sentano proprio agio. Adesso conosciamo anche i rischi per la loro salute e anche i rischi, perché no, per l'economia. Miliardi di dollari spesi ogni anno per trattare i disagi, le condizioni che possono essere in qualche modo correlate all'obesità. Si parla di appunto disturbi cardiaci, diabete e altro ancora. Quello che anche sappiamo è che non c'è stato mai niente di tutto questo, perché se torniamo indietro nel tempo, scrive sempre Michelle Obama su Newsweek, noi ripensiamo alla nostra infanzia, la signora Obama è, come sapete, attorno alla quarantina, non diamo numeri più precisi come si conviene alla galanteria, dice: se torniamo però alla nostra infanzia ci ricordiamo che andavamo a scuola a piedi ogni giorno, correvamo, andavamo in palestra e insomma ci muovevamo per parecchio tempo nel pomeriggio prima di cena, spesso consumavamo cibi che venivano preparati in casa. Per molti bambini, per molti ragazzi oggi, queste passeggiate verso la scuola sono state sostituite dalle auto, dai pulmini della scuola, i pomeriggi passati a giocare all'aperto sono stati rimpiazzati da pomeriggi davanti alla TV, ai videogame, davanti al collegamento internet. E dice: dobbiamo anche essere onesti, scrive la signora Obama, con noi stessi, i nostri non sono proprio i nostri figli che da soli scelgono di darsi questo tipo di vita, non decidono di che cosa viene servito, che cosa viene fornito in un bar scolastico, in una caffetteria scolastica, non decidono qual è il tempo che devono passare in palestra, qual è il tempo per riposare, non decidono neanche la composizione l'assimilazione di certi cibi con tonnellate di zucchero o di sodio in porzioni super size, cioè molto molto abbondanti. Allora dice: questo è il momento di fare qualcosa. Lei ha avviato questa campagna che si chiama Let's Move, cioè muoviamoci, muoviamoci chiaramente in più sensi, cioè facciamo qualcosa, ma anche facciamo dell'attività fisica, una campagna nazionale con un solo obiettivo: risolvere il problema dell'obesità infantile in una generazione, quindi in un tempo relativamente breve, in un tempo dato, in modo che i bambini che nascono oggi possano raggiungere l'età adulta in un peso forma ideale. Questo è lo spirito appunto di Let's Move, la campagna lanciata da Michelle Obama, che dice, poi spiega su Newsweek, si occupa di interagire con più soggetti, naturalmente fare informazione alle scuole, ma anche dare ai genitori gli strumenti di cui hanno bisogno per crescere, per aiutare i loro figli a crescere in modo sano, a mangiare in modo sano, e anche fare pressione sulle industrie alimentari perché non diffondano delle abitudini alimentari o dei cibi più difficili o diciamo più problematici per appunto la prevenzione della obesità infantile. Tutto questo appunto su Newsweek questa settimana, il contributo davvero importante di una della signora direi più importante del mondo, la First Lady Michelle Obama, la moglie di Barack Obama. Magazine 24. Bentornati a Magazine 24, stavamo leggendo da Newsweek il contributo di Michelle Obama, ma sempre su Newsweek questa settimana c'era un articolo di Daniel Lyons che invitava a trasmettere, a passare decisamente alla modalità internet per la trasmissione degli eventi sportivi, di alcuni eventi sportivi più importanti. Lui parte dalla considerazione, dalla sua esperienza, che poi è stata quella un po' di tutti noi nel mondo, con le Olimpiadi invernali. Dice: ecco come io vorrei vedere le Olimpiadi invernali nel 2014, cioè le prossime. Voglio andare su un sito web, scegliere un evento, diciamo la discesa libera maschile, e guardare tutto quanto dall'inizio alla fine sulla mia televisione a grande schermo, oppure sul mio computer o magari sul mio telefonino. E voglio poter saltare le parti naturalmente che non mi interessano, poter tornare indietro a vedere quello che mi interessa per poterlo apprezzare nuovamente, e sono anche disponibile a pagare à la carte, cioè volta per volta, per ogni evento che scarico, che voglio consumare, che voglio vedere. Questo è, dice Lyons, il modo in cui mi aspetterei che venisse seguito un evento così importante. Però qual è il però che poi muove tutto l'articolo? Che la tecnologia per fare questo tipo di cose, per soddisfare queste richieste, in realtà c'è già, è disponibile, e questo potrebbe accadere già oggi. Allora perché, lui si chiede, non accade? Perché negli Stati Uniti, naturalmente la sua è un'esperienza statunitense, perché negli Stati Uniti si è preferito come dire, dare sempre la prevalenza al prime time, cioè alla prima serata televisiva, e rinviare al sito solo per contributi successivi alla diffusione delle immagini dalle Olimpiadi di Vancouver, solo successivamente, ripeto, a quando è stato visto poi da tutto il pubblico televisivo della prima serata. Dice, perché essenzialmente è più si ritiene che sia una minoranza quella che sarebbe disponibile a seguire le Olimpiadi nel modo che lui ha descritto, quindi all'incirca si stima adesso un 7% dell'audience totale, e poi perché è indubbiamente più redditizio collocare l'evento nel prime time, nella prima serata televisiva, piuttosto che renderlo disponibile su internet. Questo almeno è vero al momento, non sappiamo poi sulle Olimpiadi del 2014 di cui parla l'autore. È quindi costruire un tipo di visione basato essenzialmente sull'online è costoso, è rischioso, però dice, qui ci si trova di fronte a quello che le industrie discografiche, le case discografiche hanno sperimentato un decennio fa o forse qualcosa di più. Non hanno preferito non investire in un mercato online perché non erano sicure che se poi avrebbero trovato utenti oppure no, e poi però sono arrivati invece i protagonisti del mercato digitale, della musica digitale, che hanno quasi di fatto monopolizzato e trovato naturalmente i loro cospicui ritorni economici proprio da questo. Quindi questo è l'invito di Daniel Lyons a dare un po' più di coraggio a questo sviluppo tecnologico e poter in realtà poi migliorare il gusto di noi spettatori, telespettatori, riguardo a questi grandi eventi sportivi. E allora, visto che parliamo di eventi sportivi, una curiosità che ho trovato su Vanity Fair questa settimana, ci saranno delle nazionali di calcio che in Sudafrica per i prossimi mondiali vestiranno delle magliette di plastica riciclata. La questione può sembrare così un poco comprensibile, ma è quello che riferisce Vanity Fair. Tutte le divise delle 9 nazionali che al mondiale in Sudafrica vestono Nike saranno fatte di poliestere che è al 100% riciclato, cioè plastica. Il rapporto è all'incirca 8 bottiglie per una maglietta, secondo l'azienda se ne useranno 13 milioni, quindi sono circa 1,5 milioni di magliette. Naturalmente non ci sono solo le magliette usate dai calciatori, ci sono poi tutte le magliette che vengono diffuse per la vendita ai tifosi, ai sostenitori. Sono magliette tutte eco-friendly. Il processo tra l'altro ha una dimensione assolutamente globale, perché le bottiglie vengono raccolte a Taiwan e in Giappone, vengono poi ovviamente tagliate, la plastica viene fusa e il materiale che si ottiene da questa fusione viene filato e lavorato per ricavarne le magliette. Le nazionali che vestiranno di plastica riciclata saranno il Brasile, l'Olanda, il Portogallo, gli Stati Uniti, la Corea del Sud, l'Australia, la Nuova Zelanda, la Serbia e la Slovenia. Queste appunto le nuove squadre nazionali che in Sudafrica utilizzeranno questo particolare materiale. E di gioco in gioco un'altra curiosità che ho trovato sempre su Vanity Fair, penso che molti di voi conoscano Trivial Pursuit, è un gioco di società decisamente famoso, anche molto diffuso. Consiste di fatto nel rispondere a una serie di domande che di difficoltà variabile, alcune anche molto difficili, che vengono poste e chi è più bravo, chi sa più risposte, può andare avanti. C'è una componente anche di fortuna data dall'utilizzo dei dadi nel gioco. Ecco, però è stato fatto questo curioso esperimento, cioè un esperimento di maratona online di questo gioco. Sono state fatte 5 mesi di sfide uomo-donna a colpi di quiz, quindi è stato fatto il classico uomini contro donne, che è anche poi una conformazione che spesso si sceglie di utilizzare quando si fanno questi giochi, questi quiz, questi giochi basati su quiz. E il responso, ohimè, quindi avete già capito come è andata a finire, il responso è stato che le donne ne sanno più degli uomini. C'è anche un sito dedicato appunto a questo esperimento. Ci sono state poste 15 milioni di domande in 9 lingue. La maggior parte delle risposte esatte sono state date proprio dalle donne, soprattutto nel campo della cultura e degli spettacoli. Gli uomini sono andati meglio solo in scienza e natura, si sono dimostrati però deboli soprattutto in geografia. Questo ci avverte, di questo ci avverte Vanity Fair questa settimana, appunto, non siamo così studiosi, così preparati quanto le donne. E in effetti le donne hanno avuto anche un riconoscimento importante con l'ultima cerimonia degli Oscar. Ne avevamo parlato anche nella scorsa puntata. Catherine Bigelow, regista donna, per la prima volta ha vinto un Oscar, cioè è la prima volta che una donna si è aggiudicata l'Oscar. Ne abbiamo parlato noi, ne hanno parlato ovviamente tutti i giornali. Ci torna sulla circostanza Sorrisi e canzoni TV, perché il film della Bigelow si occupa appunto è un film di guerra, ma non di guerra in senso classico come potreste pensare. È la storia di un artificiere che viene impiegato a Baghdad e lavora appunto a sminare, a disinnescare le bombe che vengono lasciate dai terroristi o insomma dagli eventi bellici in genere. Il film si chiama The Heart Locker e tra l'altro è un corrispondente di una parola di uno slang in uso tra le forze armate americane. La cosa significa più o meno un luogo rischioso, un luogo in cui non si sa come va a finire, ecco, questo è il significato del titolo. E quello che forse non tutti hanno visto e che Sorrisi e Canzoni ci ricorda è che quando fu presentato alla Mostra di Venezia nel 2008, questo film The Heart Locker non piacque a tutti e diversi critici erano abbastanza scettici sulla bontà del prodotto. E quando è uscito nelle nostre sale cinematografiche ha incassato molto poco più di 130.000 euro, ora però tornerà nei cinema. E invece però quando è andato alla serata degli Oscar, The Heart Locker è riuscito a sconfiggere niente meno che Avatar, come sapete. Ha vinto 6 Oscar e quindi perché? Perché li ha vinti, scrive Sorrisi e Canzoni, ha saputo raccontare la guerra vera, quella dell'Iraq, con uno sguardo introspettivo. Catherine Bigelow, 58 anni, è come dicevamo la prima donna regista che ha ottenuto la statuetta, e anche se lei ha subito protestato, ha detto non è una questione di genere, mi considero un filmmaker, non credo che il mio sesso faccia la differenza. Questa è l'affermazione della Bigelow e con questa affermazione noi abbiamo concluso anche questa puntata di Magazine 24. Io vi ringrazio per l'ascolto, vi do appuntamento alla prossima settimana, sabato prossimo, sempre alle 8:30 qui su Radio 24. Vi ricordo che sul nostro sito www.radio24.it potete riascoltare questa puntata e tutti i programmi di Radio 24. Grazie a Pietro Lacorte in regia, Margherita Aina e Vittoria Mussini che mi hanno aiutato a preparare il programma. A sabato prossimo.